Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, nel lenzuolo del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Ah. Tu non mi basti mai. Davvero non mi basti mai. Tu dolce terra mia, dove non sono stato mai. Devo parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai, io dalle tue mani non volerei. Vorrei essere la tomba quando morirai, e dove abiterai, il cielo sotto il quale dormirai. Così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai. Tu non mi basti. Davvero non mi basti mai. Io ci provo, sai, non mi dimenticare mai. Thank you.